Consiste in un imbroglio, consiste in un pasticcio, una legge fatta su misura, direi, con una raffinata opera di sartoria rispetto agli interessi del Partito Democratico, dell'attuale maggioranza, ma vorrei dirlo in modo ancora più chiaro, delle future possibili maggioranze. È una legge pensata per preparare il governo PD Forza Italia, il governo Renzi Berlusconi. È una legge che reintroduce una quota di maggioritario, dunque torna a produrre una stortura nella composizione della rappresentanza parlamentare, ma ripeto, lo fa in modo pasticciato, non consente il voto disgiunto, quindi determina un effetto di trascinamento con un solo segno. Un elettore vota molte cose anche molto diverse tra di loro, cioè vota il candidato nel collegio, ma vota anche i partiti che lo sostengono, magari partiti che hanno tra loro punti di vista, percorsi, profili politici, culturali molto diversi. Perché questa legge accenna alle coalizioni ma non prevede nessun elemento di vincolo sul terreno programmatico, politico, culturale perché la coalizione sia compresa e comprensibile di fronte ai cittadini. E poi perché questa legge per l'ennesima volta, e questo mi pare un fatto per certi versi ancora più inquietante, consegna agli italiani un Parlamento fatto per più di due terzi da nominati. Non solo non ci sono le preferenze, si può discutere, ma appunto non c'è il voto disgiunto, non ci sono meccanismi che consentano, sulla base anche naturalmente della selezione dei partiti, però poi di far fare ai cittadini e alle cittadine una libera scelta. Ecco, tra l'altro c'è unità, diciamo, in tutto quello che è a sinistra del PD nel contestare questa legge. Quali sono adesso le vostre richieste e come pensate di agire? Ora è passata con la fiducia alla Camera, si avvicina al voto al Senato, come pensate di muovervi adesso? Ma intanto noi continueremo la battaglia, la continueremo nel Paese, la continueremo nell'Aula del Senato, perché questa legge non passi, venga respinta, e perché si faccia quello che era possibile, naturale fare, cioè rendere omogenee le leggi di Camera e Senato, leggi che avevano in qualche modo un bollino di costituzionalità derivante dalle sentenze che erano intervenute in precedenza sull'Italicum, anche perché, lo voglio ricordare, su questa legge pende un'altra pesantissima ombra, che è il ricorso allo strumento del voto di fiducia, ed è un'ombra pesantissima e inquietante perché da un lato determina un precedente molto pericoloso, quello per cui una maggioranza poche settimane, pochi mesi dal voto può decidere con un atto di forza, di carattere coercitivo, di imporre il sistema elettorale che più le conviene, e secondo perché ci sarebbe voluta una qualche prudenza in più. Questa è l'ennesima dimostrazione che non è stata compresa la lezione, per quanto fragorosa, del voto del 4 dicembre. Allora gli italiani hanno respinto il referendum e poco prima la legge elettorale, poco dopo la legge elettorale che era stata imposta con la fiducia, l'Italicum, è stata bocciata dalla Corte Costituzionale perché incostituzionale. Ecco, sarebbe servita un po' più di prudenza, non c'è stata, c'è stato il contrario, protervia ed arroganza. Quindi continueremo la nostra battaglia con l'auspicio e la speranza che nell'Aula del Senato questa pessima legge venga respinta. Parlando della fiducia, diciamo, è una prova di forza da parte di Renzi, ma non è neanche un segno poi di così tanta sicurezza di avere i voti senza la fiducia, diciamo. Può essere anche un sintomo di una spaccatura, un qualche dubbio anche all'interno del PD? No, la fiducia è una prova più che di forza, una prova di arroganza e di violenza nei confronti del Parlamento, della sua funzione, nei confronti dei parlamentari, dei deputati e delle deputate, ma è anche, appunto, come lei ricordava, una prova di debolezza nei confronti della propria maggioranza. La fiducia serve a costruire uno strumento, un meccanismo coercitivo rispetto ai propri parlamentari, perché la verità è che se si fosse svolta la discussione non solo con i voti segreti ma anche con quelli che, lo ricordo, sono uno strumento legittimo della battaglia parlamentare, non avrebbero avuto gli argomenti per difendere una legge che è evidentemente non solo frutto di un interesse particolare e non di un ragionamento sulla democrazia italiana, ma è anche pasticciata e largamente contraddittoria. Ecco, una domanda che è quasi d'obbligo, visto che tutti i tentativi di legge elettorale degli ultimi periodi si sono risolti in problemi di incostituzionalità. Pensate che possano esserci margini per problemi di questo tipo anche in questo caso oppure no? Ma adesso io non sono un costituzionalista, dunque non voglio su questo emettere sentenze, però mi pare di poter dire, anche invece nell'interlocuzione con diversi costituzionalisti, che esistono anche in questo caso profili di dubbia costituzionalità. Naturalmente su questo terreno valuteremo anche cosa fare, quali iniziative intraprendere, ma lo faremo naturalmente con un elemento di valutazione scientifica più approfondito di quello che potrei fare io. Nel caso in cui passasse, Rosatellum bis spinge un po' alle coalizioni, diciamo, voi avete già un'idea di cosa accadrà a sinistra del PD e quindi nello scenario che rimane della sinistra italiana? Ma io credo, l'ho detto sempre, lo ripeto oggi, che le leggi elettorali non fanno la politica e che le coalizioni, le scelte politiche si misurano invece sul terreno dei contenuti, del merito, della proposta, delle piattaforme. Per questo penso oggi come ieri, col Consultellum o con Rosatellum 2.0, se questo fosse definitivamente approvato, che la sinistra italiana ha la necessità, direi l'obbligo, di costruire una proposta unitaria che abbia l'ambizione di indicare un'alternativa, un'alternativa molto netta alle politiche di questi anni, alle politiche del Partito Democratico, naturalmente alle proposte della destra e del Movimento 5 Stelle, una proposta che sia fatta di lotta alla diseguaglianza, di redistribuzione, di ricostruzione dei diritti del lavoro, una politica fatta di investimenti pubblici che metta al centro il welfare, la tutela dei diritti fondamentali che sono oggi invece così sotto attacco, dalla sanità alla scuola alla tutela del territorio. Insomma, bisogna indicare una strada diversa, perché mi pare in tutta evidenza che le ricette di questi anni, che io considero sbagliate ma che in ogni caso abbiano prodotto risultati non certo edificanti per la condizione di vita della gran parte della popolazione di questo paese.